Io cammino ogni notte, io cammino sbariando. Io non tengo mai sonno, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè. Una persiana che sbatte, un lampione che luce, e un ubriaco che dice bussando a una porta ma rapo con c'è. Da tre mesi non dormo più, una bucchella vorrei scordare, cento di cita ma come già fa. Piglia da una pastiglia, piglia da una pastiglia, sienta a me. Ma mi fa dormire, ma mi fa scordare il mio dolce amore. Piglia da una pastiglia, piglia da una pastiglia, sienta a me. Ma mi fa sentire come un gran pascià e mi inebria il cuore. Tinte e vetrine tutte farmaciste, la vecchia gammo mi l'ha dato il posto. Alle palline grigie dopo sfate bromo televisionato grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia, sienta a me. Rindo scuro una gatta, masticando una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mia gola e fa. Sono ciucce carrette, carregata d'amore, casa tiro sto coro che cerca la felicità. A tre mesi non dormo più, una bucchella vorrei ascoltare, cento di cita ma come già fa. Piglia da una pastiglia, piglia da una pastiglia, sienta a me. Mi fa dormire, mi fa scordare il mio dolce amore. Piglia da una pastiglia, piglia da una pastiglia, sienta a me. Mi fa sentire come un gran pascià e mi inebria il cuore. Tinte e padrine tutte farmaciste, la vecchia camomilla ha dato il posto. Alle palline grigie, non fosfato, bromo televisionato, DTT, bicarbonato, borotac e semelina, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella di panina, con un mezzo litro di vino e un caffè con caffeina, grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia, sienta alle palline grigie, non fosfato, bromo televisionato, DTT, bicarbonato, borotac e semelina, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella di panina, con un mezzo litro di vino e un caffè con caffeina, grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia, sienta a me. Io cammino di notte,